sarà una domanda di sport. Se vuoi una domanda di calcio, spingi A. Se vuoi una domanda di pallacanestro, spingi B. Se vuoi una domanda di tennis, spingi C. Prego, spingi A, B o C. Ora. Dal momento che hai spinto Q, vuol dire che sei confuso o mi prendi in giro. Non so che domanda vuoi. Allora scelgo io per te. Ecco una domanda sulle Olimpiadi. Fai finta di essere un tuffatore olimpionico. Arrivi sulla piattaforma e ti lanci in un meraviglioso tuffo ad angelo e ti accorgi che non c'è acqua nella piscina. Stavo scherzando. Diciamo che arrivi primo alle Olimpiadi nella gara di tuffi. Allora, se tu arrivassi primo alle Olimpiadi, che tipo di medaglia vinceresti? Puoi scegliere tra tre risposte. A. La medaglia d'argento. B. La medaglia d'oro. C. La medaglia di bronzo. Voglio che tu risponda A, B o C. Ora. Vedo che c'è qualcuno molto confuso là fuori. Hai spinto Q e la risposta esatta a questa domanda era B. Dal momento che hai spinto Q, ti spiegherò che B era la risposta giusta. Prego, attendi un attimo mentre calcolo. Grazie! Apprezzo molto gli umani che seguono le mie istruzioni. Mi fa molto piacere. Ancora grazie molte. Per la domanda numero 4 vorrei sapere se sei un bambino o una bambina. Se sei una bambina, spingi A. Quando te lo dico. Se sei un bambino, spingi B. Quando te lo dico io. Per favore, amico, spingi A o B ora. Sembra che si sia rotto qualcosa dentro di me. Attendi mentre lo aggiusto. Ecco, tutto è a posto adesso. Per essere un robot, sono un meccanico piuttosto bravo. Torniamo agli affari adesso. Oh, oh! Non so se sei un bambino o una bambina. Non hai risposto bene. Allora dovrò preparare un'altra domanda. Sarà meglio che ti faccia una domanda facile. Visto che non sai nemmeno se sei un bambino o una bambina, potresti avere dei problemi con certe domande. Che mestiere faceva Cristoforo Colombo? Ti do tre possibilità. Faceva A. l'idraulico, B. il maestro, C. l'esploratore. Prego, rispondi A, B o C. Ora. Dal momento che hai spinto Q, devo dedurre che sei confuso. La risposta esatta a questa particolare domanda è C. C era la risposta esatta. Sfortunatamente tu hai risposto Q. Per favore, cerca di scegliere una risposta in futuro. Prego, attendi un momento mentre calcolo.